cene, io voglio seguitarla da lungi, oh, tanta cura non prendergli costui. Vedi che il cielo, stanco di soffrirlo, al suo destino lascialo in abbandono. Lasciarla amico? Oh, così vil non sono!